e morti sul lavoro per costruire la tomba del faraone. La piramide più grande che c'è per il Dio in terra, morti sul lavoro e fatica per la tomba del faraone. Senza tombe, e mille morti senza nome, per costruire la tomba del faraone. E ancora non si capisce perché lo schiavo con le mani spezzate debba pagare per il padrone, per le sue stronzate. Fatica e morti sul lavoro per costruire la tomba del faraone.